La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Da Milano, Oscar Giannino in diretta dagli studi di Radio 24. Naturalmente vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Devo dire che ringrazio tutti coloro, tanti, che mi hanno scritto anche alla mail mia. La mail mia, posso dirvela senza nessun problema. Tanto leggo, rispondo, provo a rispondere a tutti. Comunque, ho Giannino tutto attaccato, minuscole senza punti, yahoo.com. E devo dire che la trasmissione di ieri, molti di voi hanno mandato commenti, qualche dissenso, i più di ringraziamento a Maria Giovanna Maglie. Devo dire che gliele ho girate le vostre congratulazioni, una delle poche giornaliste italiane che in mesi non si è lasciata distogliere dall'errore di massa compiuto poi su Trump. Però vi dico che oggi non insisto su Trump, perché continuo a ridacchiare tra me e me, e senza nessuna presunzione, per carità di Dio, vuol dire che io non ho le fonti giuste, nel vedere fiorire sui siti dei giornali già stamattina, ma decine e decine e decine di articoli in cui si dice che cosa farà Trump nei primi 100 giorni, ecco le nomine di Trump, c'è già elenchi dettagliati di chi incarica la difesa, di chi incaricherà il tesoro, il Consiglio della Sicurezza Nazionale, il Corriere della Sera in prima pagina mette richiama Sarah Palin e così via. Allora io mi astengo, perché siccome vi dirò la verità, credo che tutti questi colleghi evidentemente avranno fonti dirette con lo staff ristretto di Trump, ma siccome lo escludo, stiamo naturalmente facendo un altro dei pezzi fantastici in cui il giornalismo è campione, cioè siccome non si concepisce l'horror vacui, bisogna inventare secondo delle strategie di ragionevole probabilità, ma in assenza di fonti. Allora io francamente me ne guardo bene, quindi io non so dirvi, e quindi non mi avventuro a commentare su cosa saranno i provvedimenti dei 100 giorni, la squadra di governo, chi manda la Fed, chi manca di là. Andate a vedere sugli altri siti, vediamo chi ci azzecca e chi no, ma sarà azzeccare, perché di fonti dirette in queste ore in Italia non ne ha praticamente nessuno. Ecco, quindi per questo io non mi avventuro, lo vedremo dalle nomine e da che cosa farà. Ma per il momento, per chi vuole, c'è ancora da approfondire molto a lungo i contorni e il significato della sua vittoria. Invece oggi la puntata è dedicata a un'altra vicenda, una vicenda italiana che mi è stata segnalata, e lo ringrazio, da un amico medico che si chiama Paride, di nome, che mi ha girato stamattina gli estremi di un sito di informazione giornalistica delle Marche, in cui veniva segnalata una questione che, dopo un primo approfondimento con la diretta persona interessata, mi è sembrato molto interessante. Stiamo parlando della vicenda di un medico di base che agisce appunto nella provincia anconetana, quindi nelle Marche, e che da qualche anno, a dire la verità, ma lo sentiremo argomentare, gli va stretta questa condizione. Gli va stretta perché tocca con mano nella sua realtà professionale i tantissimi problemi di scarsa proclività di colleghi e dell'amministrazione sanitaria a una specie di, come devo dire, chiamarla, educazione alla legalità degli assistiti. Combatte contro l'eccesso di burocrazia, combatte contro la cervellotica necessità per un medico di base di avere a che fare con una pluralità di soggetti terzi a seconda della copertura sanitaria del paziente assistito. E allora, dopo anni in cui pubblicamente, perché poi siamo andati a ricostruire, sono anni che dichiara le sue opinioni in maniera molto chiara, molto netta, questo gli va dato merito, al medico che ora vi presento, dopo anni ha comunicato stamattina, questo era lo spunto, la sua decisione finale. Se ne va in Francia a fare lo stesso mestiere, quindi il medico di base, sulla base di condizioni molto diverse offertegli, innanzitutto proprio per il contesto legale e procedimentale in cui si svolge la sua funzione. Allora, mi sono detto, questa storia merita di essere raccontata, e l'appello che faccio, se c'è qualche medico di base in ascolto, è a chiamarci a propria volta all'800240024 per dirci come la pensa. Mi limito a chiederlo ai medici, perché effettivamente posso sbagliare, ma la mia opinione è che solo chi esercita questa specifica professione sia in grado di raccontarci la sua esperienza e le sue valutazioni su tutto ciò che spinge il nostro ospite, dopo anni di tentativi, ad aver assunto alla fine questa amara, ma del tutto comprensibile, sentiremo le ragioni, decisione. Allora, il nostro ospite si chiama dottor Antonio Scardino, medico di base. Grazie di aver accettato l'invito di essere ai microfoni oggi pomeriggio di Radio 24. Buonasera a lei e buonasera ai radioascoltatori, grazie per questo invito. Allora, che cos'è che l'ha spinta a questa decisione? E le chiedo anche di raccontare, perché io ho trovato fonti giornalistiche con suoi ragionamenti taglienti abrasivi fin dal 2010, a dire la verità. Lei nasce come medico di base innanzitutto nella sua evoluzione professionale medica oppure no? No, io immediatamente dopo la laurea mi sono inserito in un contesto di ricerca, mi sono specializzato in Francia dove ho trascorso alcuni anni e poi pian pianino sono entrato poi nella medicina, quella applicata. Sì. Sono tornato in Italia e sono entrato nelle graduatorie. Che lei è un immunologo come specializzazione? Sono immunologo, sì, grazie per averlo specificato. E quindi sono tornato in Italia nel 2002 e ho deciso di esercitare la medicina, quella pratica. Sì. Quindi mi sono messo in graduatoria e pian pianino ho avuto i miei incarichi come medico di base. Come medico di base. E qual è la realtà che dopo qualche anno ha iniziato ad andarle stretta? La realtà è una realtà di diseducazione, ma a mio umile parere. Sì, figurati. Per poco che capisco, per carità. E di diseducazione da parte della classe medica nei confronti dei pazienti, che non definirei gli attori principali di questa mentalità un po' lassista. Io nel mio piccolo, ripeto, penso siano i medici che dovrebbero un poco educare i propri pazienti a un uso della pubblica amministrazione, del sistema sanitario nazionale, come viene chiamato qui, in modo, diciamo così, onesto, ecco, onesto e non come moneta di scambio fra medico e paziente. Cosa che invece accade in Italia, purtroppo. Allora, io le leggo un brano che è del marzo 2015, un brano suo, di Antonio sì. Scardino. Le leggo, no, perché le frasi mi hanno fatto sobbalzare quando l'ho letta. Certo. In questi anni ho vissuto e lavorato in luoghi splendidi e pittoreschi, dove però sì. Il procedimento, lei usa un aggettivo tagliente, mafioso, dei meccanismi lavorativi è la normalità acclarata. I pazienti si vendono da un medico all'altro. I dirigenti amministrativi fanno il bello e il cattivo tempo con i soldi pubblici. I piccoli personaggi della scrivania diventano dei giganti, senza alcuna autorevolezza, che decidono di un territorio e delle persone che ci vivono, talvolta inventando regole inesistenti pur di affermare il loro piccolo potere. I medici, svogliati, furbi, dal comportamento indecente, quelli che sono così, non è un giudizio generale, restano al loro posto indisturbati, difesi dall'omertà e dalla connivenza di una inerte dirigente. Così talvolta l'abuso d'ufficio, il peculato, la calunnia, la volgarità nel rivolgersi ai pazienti, il nepotismo e la corruzione diventano fatti normali, ma normali non sono. Allora, uno potrebbe dire, gliene hanno fatto qualcuna storta al dottor Scardino e lui si vendica spargendo a propria volta diffamazione e calunnia. Perché sia fugata questa cosa? Perché lei è da anni che lo dice, è andato al tribunale di Urbino e così via. Ci spiega meglio di che cosa si tratta? Perché le accuse sono pesanti. Sì. Sono contento e la ringrazio di aver specificato per i medici che sono così, non è una generalizzazione. Esatto. Ovviamente. Certo, ci mancherebbe. Sì, dunque, ho avuto a che fare con dirigenti amministrativi condannati per peculato che maneggiavano il mio stipendio. Ho avuto a che fare con stipendi che ho dovuto controllare mese per mese perché il numero dei pazienti non corrispondeva. Ho avuto a che fare con colleghi che compravano e vendevano pazienti, chiedevano soldi. Ho avuto a che fare con medici, colleghi che fumavano in ambulatorio, perché intanto da chi altri sarebbero potute andare queste persone, essendo gli unici per esempio nel giro di 3 o 4 paesi. E ho visto cose così, ecco, ho visto pazienti che ho ricevuto in eredità educati alla compravendita. Ho un amico infermiere all'ospedale, mi ha trovato un posto per domani per una risonanza magnetica al cervello fammela urgente, questo tu imperante, lei non si dà mai, fammela urgente. Ma lei dice, lei ha scritto anche, c'è una contrattazione da mercatino sahariano delle risonanze magnetiche consigliate dagli amici infermieri e pretese a brutto muso in esenzione totale. Sì, funziona così, funziona che essendo abituati, ma non è colpa dei pazienti, ripeto, essendo abituati che loro con un colpo di telefono ordinano una ricetta del sistema sanitario nazionale, quindi un rimborso da parte dello Stato di 200-300 euro parliamo, e di una tutta una serie di raggi che vengono recepiti dal paziente, ovviamente per un banale mal di testa, e il paziente ha i suoi canali, passa avanti alle file create dai centri unici di prenotazione, ha un suo sistema mafioso di arrivare alla prestazione e un suo sistema mafioso di chiamare il medico e ricevere la prestazione urgente. Urgente vuol dire che si passa davanti a persone che hanno concretamente delle patologie che stanno aspettando da un mese. E per cosa? Se gli si chiede, scusi, ma lei perché fa la risonanza? Mi fa male la testa. Cioè non passano nemmeno per il medico o vengono a farsi visitare, decidono tutto loro. E quello che mi sconcerta è che questa è un'educazione che i medici hanno dato ai pazienti. Cioè potete telefonare e ottenere quello che volete, perché se rimanete con me io ho uno stipendio più alto. Questo io non lo trovo molto giusto. Poi, lei fa un elenco di prestazioni per le quali c'è un'attestazione medico-sanitaria da parte del medico di base ai pazienti, che implicano una serie molto lunga di eventuali possibili truffe, perché qui si tratta naturalmente di certificati medico-assicurativi che devono andare privati alle imprese per le patenti, per le palestre, per la copertura sanitaria in caso di malattie e quindi astensione del lavoro, per, ma mi pare che non sia il suo caso personale, l'ho trovato solo citato una volta, l'ammissione ai benefici della legge 104 per familiari che abbiano patologie tali per cui la legge 104 prevede naturalmente l'astensione dal lavoro per la prestazione di cura parentale a questi parenti. Io ricordo a chi è in ascolto e non lo sa, che lei per quello che ha detto negli anni ha dovuto anche subire delle vicende giudiziarie, cioè dal 2002 è stato coinvolto in due procedimenti penali, è stato sempre assolto, il nostro ospite, il dottor Scardino, sempre assolto, sempre per aver detto la sua opinione, e ha avuto anche un terzo procedimento perché è accusato da colleghi di aver molestato sessualmente una paziente, una donna, poi non è risultata nel procedimento, non esistente nella realtà, però 6 anni di procedimento giudiziario. Quindi insomma, lei l'ha pagata questo fatto di denunciare tutte queste cose. È di questo che hanno paura i medici, io credo, immagino, credo che abbiano paura proprio di questo, di battersi, cioè di andare ma lei avrà incontrato colleghi che la pensano come lei, però, non è no. No? Io per adesso no, poi sono aperto a tutte le possibilità, per carità, io poi non è che abbia vissuto chissà quanti anni, sono speranzoso, li incontrerò. Per il momento io sento un ostracismo, anzi, da parte loro, perché da parte loro, di chi la pensa così, ovviamente. Quindi chi non la pensa così, comunque una telefonata te la fa, una mail te la scrive, ma non viene in tribunale o comunque non si batte in prima persona. Cioè questa è una mentalità accettata in qualche modo, comunque che conviene a tutti. Ecco. E con questo pregresso, quando le è arrivata, insomma quando è andato a Sirolo, che è il comune in cui opera adesso, l'accoglienza è stata, io mi ripeto a dire, molto fredda nelle sue descrizioni. Dica lei se vuole entrare nei particolari. No, per carità, non c'è niente di... Diciamo che con la maggioranza delle persone c'è un rapporto molto cordiale, molto anche in alcuni casi affettuoso, se non di amicizia concreta, vera. Quindi mi sono sentito bene, insomma, in una situazione lavorativa, quindi ecco, non è che uno viene a cercare, diciamo così, l'affetto in un posto, viene a lavorare, quindi per carità. E io sono riuscito a stabilire le mie relazioni. Però c'è una cospicua parte della popolazione che comunque vede il nuovo, il cambiamento come un pericolo. E se il medico nuovo non si attiene alle regole stabilite dal medico che sostituisce, lì diventano aggressivi. Lei descrive anche un rapporto venato, diciamo così, di forte opacità, non voglio parlare di chiari illeciti, sia con le farmacie e le prescrizioni, sia con, in particolare cita un ospedale che difende per iscritto, scrive lei, il proprio personale che rifiuta di fare da parte sua consultare, rifiuta la consultazione delle cartelle cliniche dei suoi pazienti. Sì, sì, sì, effettivamente, come ho scritto anche sull'articolo di Conero News 24, l'ospedale di Osimo, a parte, mi ha fatto veramente una brutta impressione, mi dispiace dirlo, mi dispiace, io, cioè, voglio dire, sono una persona felice, con famiglia, sono una persona contenta, però un ospedale come quello di Osimo è veramente mortificante e non si può dire, quello che a me dispiace, voglio dire, i pazienti si vengono lasciati soli, in fondo a fare le loro lotte sono anche più deboli della classe medica, non la capisco questa cosa, e da medico ho denunciato questa cosa e pure lì mi sono fatto l'inimicizio dell'ospedale di Osimo. E ripeto, io sono una persona che ama ridere, sono contento, non sono una persona cupa. E una volta sono andato all'ospedale di Osimo, ho chiesto la cartella clinica dei miei pazienti per avere uno scambio, per poter parlare con loro, e la cartella clinica mi è stata rifiutata. Ma è stata rifiutata perché non si fa mai o perché lei è un rompiscatole, secondo lei? Io sono rompiscatole perché l'infermiera non mi conosceva. Quindi se l'infermiera, la caposala, e il medico non c'è, la caposala comanda in qualche modo lì tutto il reparto, c'è questa volontà, questo desiderio di chiunque abbia un piccolo potere di esercitarlo alla massima potenza. Cioè c'è una sorta, secondo me, per carità, sempre tutta umiltà, c'è un qui pro quo, cioè lì io e lei, io e la caposala siamo lì per aiutare i pazienti, non è più così, non è più così, diventa un luogo dove comanda chi comanda e esercita il proprio potere chi può farlo. Allora lì ho scritto una lettera all'ospedale di Osimo, i dirigenti dell'ospedale di Osimo mi hanno risposto che la loro impiegata aveva fatto bene per capire e per spiegare, andare un po' più rapidamente ai nostri ascoltatori, perché adesso abbiamo l'introduzione di un minuto per il traffico e poi arriviamo al punto di dove va e perché ci va e che cosa pensa di cosa troverà in Francia. Ma detto questo, il rapporto con le farmacie, cari ascoltatori, riguarda naturalmente, come ciascuno di questi aspetti, i soldi che noi paghiamo da fiscalità generale per il finanziamento dei 112 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale, perché il nostro ospite, il dottor Scardino, dice: qui io mi imbatto regolarmente in farmacisti di zona che elargiscono bonariamente diagnosi gratuite e pubbliche in negozio, anticipano la vendita della relativa terapia e poi mandano i pazienti dal medico, cioè da me, per richiedere la ricetta postuma. Ma veramente la diagnosi e la terapia, se necessaria, di farmaci, dovrei essere io a farla, così metto solo un timbro e non solo vengo meno al mio dovere di medico nei confronti del paziente, ma, come ovvio, tanto paga Pantalone, cioè il contribuente, eccetera eccetera. E la domanda è: se questo è il meccanismo diffuso, cari ascoltatori, voi capite bene che poi capiamo perché la spesa farmaceutica si fa toc toc con meccanismo automatico, unico paese che ce l'ha, per un ripiano percentualmente molto elevato ogni anno ai produttori. Ma il problema, come si vede, è all'origine, sulla diagnosi e sulla prescrizione. Allora, volevo aggiungere questo per spiegare il dettaglio tecnico, perché molti hanno incuriosito cosa vuol dire il rapporto con la farmacia che non funziona. Questo vuol dire questa roba qua. Strade e poi torniamo con il nostro ospite. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta con il nostro testimone, non testimone di giustizia, ma testimone della sua esperienza, medico di base nell'Anconetano, Antonio Scardino. Devo dire che sono arrivato un mucchio di telefonate. Sentiamo qualcuno di voi rapidamente. Cominciamo con Corrado, che si chiama da Grosseto. Corrado, prego. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, io voglio dire che la situazione, insomma... Lei è un medico, sì. Io sono un medico. Sì. Sono un medico e la situazione, diciamo, è tragica. Io sono un ospedaliero. Mm. Ho lavorato un po' in Piemonte, ho lavorato in Campania. Io sono originario di Napoli. Mm. C'è da dire che c'è una preparazione veramente scarsa dei miei colleghi, soprattutto i medici di base. Ah. Per cui devo dire che dal nord al sud, fondamentalmente, i pazienti che vedo tutti i giorni in ospedale, eccetera, riscontrano proprio la mancanza di volontà del lavoro da parte del medico di base, per cui sono si sono abituati, li chiamano gli scrivani, cioè praticamente loro sono abituati a chiedere la ricetta, ma ormai il percorso che dovrebbe essere utilizzato, cioè io vado dal medico di base, il quale mi inizia a dare una terapia per un'ipertensione arteriosa, diciamo, normale, se non ci sono problemi specialistici, alcuni pazienti da noi non dovrebbero arrivare proprio. Invece noi vediamo che il paziente va dal diabetologo, che poi insomma è una disciplina che lascia il tempo che trova, dovrebbero essere tutta una serie di cose di appartenenza alla medicina generale, per cui loro dovrebbero essere in grado, teoricamente, di dare un po' tutte le terapie, di essere in grado di curare la maggior parte delle terapie alle quali i nostri anziani sono affetti, perché diciamo che dopo 50 anni, curva demografica del nostro paese è ben noto, quindi insomma andiamo avanti, è chiaro che ci sono patologie collegate all'età anche. Allora voglio dire, dare l'antipertensivo, iniziare la prima terapia base con un ipoglicemizzante orale, con un po' di insulina, fare un attimo uno screening, sono tutte cose che non dovrebbero andare in mano agli specialisti, dovrebbero andare in mano ai medici di base. Ma lei dice, però, la situazione dei medici di base è tale per cui evidentemente il nostro medico dottor Scardino non è un matto a denunciarla, c'è una prassi per cui il filtro medico-sanitario non è esercitato nella generalità dei casi, non sto parlando della generalità dei casi, però in molti casi a quanto pare anche il nostro primo ascoltatore dice che gli risulta, lui è un medico ospedaliero. Sentiamo Lio, sempre dalla provincia di Grosseto, prego Lio. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, da medico a paziente, io sono un paziente anche piuttosto impegnativo perché ho numerose patologie in atto. Sono un 68enne, ultimamente la voce affaticata perché nel frattempo stavo facendo qualcosa. Ah, mi scusi, non per asma. Allora, ultimamente io ho avuto, causa disturbi gastrointestinali e forte diarrea, un calo che da 56 mi ha portato a 45 kg. Per tre volte, sono stato portato al pronto soccorso Grosseto, Orbetello, Grosseto, e sono stato dimesso perché, essendo un malato tra virgolette cronico, io non ero ricoverabile. Sono uscito da questa cosa un po' per merito di un medico di base che faceva da supplente al mio medico di base, perché il suo medico di base invece evidentemente nel suo giudizio non faceva bene quello che doveva fare. Io non lo so perché ci sono un mucchio di telefonate, ma il tempo sta andando via. Scardino, perché va in Francia e che cosa lì secondo lei funziona meglio? E dunque vado in Francia, torno in Francia, ho lavorato e vissuto in Francia per 8 anni, dove ho acquisito un dottorato in immunologia, e torno in Francia perché c'è, a mio parere, una rete sociale più pacifica, c'è una maggiore educazione, potrò fare il medico di base con più serenità, e gli appuntamenti visiterò solo su appuntamento, e ci sarà un rapporto con gli ospedali più sereno, e i pazienti non avranno cose da chiedere, perché io non posso elargire esenzioni, per esempio, non posso elargire certificati assicurativi. Cioè le regole sono molto diverse. Allora io la devo fermare, io la ringrazio perché lei si è esposto anche oggi. Devo dire, moltissimi altri nostri ascoltatori telefonati dicono, molti da Lombardia, alcuni dal Veneto.